Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Lo sapete che c'è un'azienda americana che per ogni 100 dollari di ricavi che fa ne restano almeno 60 di utile. Cioè, vi rendete conto, guadagnare 100 euro e poi ne restano in tasca 60. Quell'azienda è la Cisco ed è praticamente considerata tra le aziende che hanno inventato la rete internet e soprattutto che l'hanno resa possibile. Adesso è anche protagonista del 4.0. E abbiamo ospite oggi con noi il suo country manager italiano Agostino Santoni. Buongiorno. Buongiorno. Con Santoni parleremo poi anche un po' di Cisco, ma parliamo soprattutto della manifattura, che è l'argomento di questa trasmissione. E cioè, la domanda è: ma com'è possibile che il 4.0, la comunicazione, l'interconnessione facciano guadagnare le aziende manifatturiere? Cioè, il 4.0 è una risposta, ma a quale domanda? La cosa è particolarmente interessante perché Cisco di recente ha fatto il Cisco Customer Club, che è un club di clienti che, udite udite, pare vengano serviti gratuitamente, se lo possono magari anche permettere dato i 60 euro di utile ogni 100 guadagnati, che sono soprattutto manifatturieri che hanno fatto delle cose importanti. Io cito quattro nomi che si possono dire: sono Marcegaglia, Impeco, Fluidotech, Marzocco e anche Dallara. Ma adesso lascio la parola a Santoni, che prima di arrivare al Cisco Customer Club gli chiedo: ma con tutta questa interconnessione, questo 4.0, poi alla fine come si fa davvero a guadagnare al di là di seguire una moda? Il tema buongiorno a tutti, innanzitutto il tema dell'industria 4.0, a me piace parlare di impresa 4.0. A mio avviso il messaggio e l'opportunità per le imprese qual è? È quello di considerare tutte le imprese delle imprese tecnologiche e di mettere al centro il digitale, che consente a mio avviso di fare tre cose: risparmiare nei costi operativi, creazione di nuovi servizi per le imprese attraverso il digitale e una maggiore sicurezza. Ecco, su questi tre temi secondo me è il percorso che le imprese devono fare per poter competere su scala mondiale. E in che modo poi da lì possono guadagnare dei soldi, al di là di dover stare dentro una gabbia di standard e di interconnessione, perché se non stanno lì dentro vengono esclusi? A me piace pensare che non è esclusivamente le macchine di produzione che sono adesso connesse alla rete, bene questo, ma è il ripensamento del modello di azienda, che vuol dire lo stile di leadership, che vuol dire la formazione delle persone, che vuol dire integrare il digitale in tutto il processo, che vuol dire ripensare il modo in cui si lavora in azienda e si costruiscono nuovi servizi. Ecco, io penso che in particolare con l'interconnessione, con il nuovo grande asset delle imprese che sono i dati, che sono finalmente disponibili, si possa ripensare e accelerare il percorso di crescita anche delle imprese italiane. Ecco, lo vedremo in pratica parlando di queste aziende del Customer Club. Ecco, ma che cos'è esattamente Cisco Customer Club? Noi 18 mesi fa con il governo Renzi e poi riconfermato anche con il governo Gentiloni abbiamo creato questo piano di investimenti per l'Italia, dove abbiamo annunciato un investimento triennale di 100 milioni di dollari. Abbiamo dato anche un nome italiano, questo programma è Digitaliani. Una delle aree di intervento è stato proprio quello di dare il nostro contributo nel percorso di Industria 4.0 a imprese italiane. Abbiamo quindi creato un gruppo di imprese con le quali abbiamo deciso di fare degli investimenti mirati per poter dimostrare qual è il contributo che la tecnologia Cisco può portare a queste imprese. La grande opportunità di questo programma è proprio quello di mettere al centro le persone e al centro le competenze. Quando si riesce a fare questo, ecco, allora vediamo di calarlo nel concreto. Per esempio, un caso è quello di Marcegaglia, che fa trasformazione dell'acciaio, essenzialmente tubi, ma anche altro. È una roba di credo 5 miliardi di euro di giro d'affari con 43 stabilimenti. Ecco, insieme a voi ha fatto la fabbrica connessa, dove insomma in questi stabilimenti adesso vedi bobine gigantesche di acciaio movimentate da macchine del tutto automatizzate senza neanche un intervento umano meno in questo processo, perché è tutto interconnesso e automatizzato. Ma questo, in tutto ciò, Cisco che cosa ha fatto? Il primo è il loro modello di business. Loro lavorano, trasformano i metalli, in particolare l'acciaio, che è un mercato straordinariamente competitivo. Quindi il tema della gestione dei costi, della riduzione dei costi e dell'efficientamento passa attraverso un processo fondamentale, che è quello dell'automazione. Allora, il lavoro che abbiamo fatto insieme a Marcegaglia è quello di dire: come può la rete, la rete vuol dire internet, i processi di interconnessione, il wifi, consentire dal ricevimento del materiale fino alla completa trasformazione, quindi al prodotto finale, che in buona parte sono dei tubi di acciaio, avere un controllo al 100% automatizzato dell'intero processo, dal momento in cui le bobine di acciaio entrano all'interno dei magazzini fino al caricamento di queste bobine o dei tubi di acciaio nei camion. Il percorso che abbiamo fatto insieme ha fatto sì che, uno, le reti che prima non dialogavano all'interno dell'azienda adesso sono un patrimonio comune sia di chi si occupa di informatica sia chi si occupa di fabbrica, quindi un'unica rete che consente al management di Marcegaglia di avere una visione completa, super efficiente del percorso che fa diciamo l'acciaio all'interno dell'azienda. Secondo, e attraverso queste navette a guida autonoma, certo, è straordinariamente aumentato la sicurezza sul posto del lavoro. Le persone che si occupavano di questo oggi fanno un lavoro molto più qualificato, che è quello della gestione delle macchine, quindi anche dal punto di vista della motivazione delle persone fanno un lavoro più qualificato e più sicuro. L'ultima parte, che secondo me è straordinariamente importante, che segue un po' il percorso che sta facendo la tecnologia nel mondo manifatturiero, chiaramente più le macchine sono connesse, più i processi sono connessi, il tema della cyber security e della sicurezza diventa un tema fondamentale. Prima della pubblicità vorrei farvi sentire una scheda su che cosa è davvero Cisco. Cisco è leader mondiale nelle tecnologie che trasformano il modo con cui le persone si connettono, comunicano e collaborano attraverso reti intelligenti e architetture che integrano prodotti, servizi e piattaforme software. Soprattutto, attraverso l'invenzione dei router, Cisco è ritenuta l'impresa che ha reso possibile la diffusione di Internet in tutto il mondo. Secondo alcuni, l'avrebbe addirittura inventata. L'azienda, fondata nel 1994, ha sede a San José, California, ed impiega in tutto il mondo circa 70.000 dipendenti, con un fatturato di 48,6 miliardi di dollari. La sua redditività è spettacolare. L'EBITDA, cioè l'utile al lordo di interessi, tasse e ammortamenti, è del 62,9%. In altre parole, per ogni 100 euro di vendite, quasi 63 sono di guadagno. L'utile netto è invece del 25,7%. Cisco ha guidato fin dall'inizio l'evoluzione delle tecnologie di rete attraverso le varie fasi del loro sviluppo, dalla prima era della connettività agli anni della networked economy, fino alla realtà in cui oggi viviamo, caratterizzata dall'esperienza di relazioni ricche e multiformi, possibili grazie ai social network, alla collaborazione online, all'opportunità di accedere ovunque, in mobilità e con ogni mezzo, al nostro mondo digitale. Fino ad oggi, Cisco ha depositato oltre 10.000 brevetti. La società è guidata dal CEO Chuck Robbins, mentre John Chambers, per quasi 20 anni CEO e ritenuto tra i maggiori artefici del successo, è presidente del CDA. A capo della filiale italiana c'è Agostino Santoni. Recentemente Cisco sta svoltando verso i servizi e il software, che ora rappresentano circa il 27% del totale e sono destinati a crescere anche attraverso acquisizioni. Da qualche anno il payoff di Cisco è diventato Internet of Everything. L'azienda vuole diventare il centro del nuovo processo di trasformazione della rete mondiale e ha premuto l'acceleratore il più possibile sul settore manifatturiero, che vuole accompagnare nella sua transizione al digitale, fornendo servizi, consulenza a 360 gradi, formazione, tutto. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presento. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Agostino Santoni di Sisco, di come i dati e l'interconnessione possono creare valore e fare guadagnare soldi alle aziende, in particolar modo alle aziende che producono, che sono l'oggetto del nostro viaggio di Fabbrica 2.4. Prima della pubblicità appunto c'era la scheda. Io volevo chiedere a Santoni, come fate a guadagnare il 60%? Cioè 100 euro di ricavi, 60 di guadagni, è una roba pazzesca. Diciamo il 60% è il margine prima delle tasse, prima delle spese e prima delle tasse. L'operating profit dell'azienda si attesta attorno al 30%. Ah vabbè, allora è un risultato chiaramente molto importante, ma è la dimostrazione, diciamo, dell'attenzione, della fortissima attenzione dell'azienda nell'innovare e nel continuare a portare benefici alle imprese. Quindi voi siete sempre sulla frontiera tecnologica, siete sempre primi e dunque avete la leadership assoluta, quindi non c'è un altro che può offrire lo stesso servizio a un prezzo minore e dunque potete mantenere il premium price e fare quegli utili lì. E questo è il segreto della faccenda. A me piace dirlo in un'altra definizione. Noi investiamo 6 miliardi di euro di dollari all'anno in ricerca e sviluppo. Questo consente di sviluppare 6 miliardi di dollari su 50 miliardi di fatturato. Sì. Quindi quasi il 12% più o meno. Il 12%, che è un investimento nel nostro settore straordinariamente importante, in percentuale ma anche per dimensione. E questo ci garantisce vantaggio competitivo. Tra l'altro, apro una piccola parentesi per dire che il tema della produttività, che è spesso oggetto di dibattiti, è legato agli investimenti. Più che legato ai salari, è legato a quanto un'azienda investe in ricerca e sviluppo, quanto investe in formazione, quanto investe in capitale umano. Forse il tema della produttività in Italia è che c'è stato un declino, perché sono declinati gli investimenti, e non è che sono declinati per colpa della crisi, perché quando c'è stata la crisi il calo degli investimenti è stato più che doppio, e comunque erano in calo già da prima. Si spera che negli anni futuri si inverta questa tendenza, che il numero dei coraggiosi sia in crescita, perché altrimenti non so dove andremo a finire. Ma comunque questa era una parentesi al di là di Sisco. Torniamo al Customer Club. Abbiamo parlato di Marcegaglia, che è un manifatturiero, più manifatturiero che manifatturiero non si può, perché tubi in acciaio, però insomma anche Marzocco che fa parte del Customer Club è un manifatturiero. Cosa fanno in Marzocco? La Marzocco sviluppa e produce delle meravigliose macchine per il caffè, nei bar, nei grandi alberghi, e con loro abbiamo fatto questo percorso meraviglioso di tecnologia, di ripensamento del loro modello di business. È interessante. Abbiamo, a mio avviso, fatto tre attività molto interessanti. La prima, abbiamo iniziato questo percorso che abbiamo chiamato la fabbrica digitale. Immaginate queste meravigliose macchine del caffè fatte da artigiani che sono bravissimi a costruire le macchine del caffè, di altissima gamma, di altissima qualità. Ecco, con loro abbiamo progettato la fabbrica digitale, cioè abbiamo guardato come la produzione delle macchine del caffè, dal momento che arrivano le parti, dall'assemblaggio fino alla definizione del prodotto finale, come la rete poteva aiutarli. Abbiamo taggato, come si dice in tecnologia, quindi abbiamo messo delle etichette intelligenti a tutte le componenti, in modo che tutto il percorso produttivo attraverso la nostra tecnologia di rete fosse completamente gestibile in modo automatizzato. Il secondo, che è il progetto più interessante, proprio centrato nel loro modello di business, abbiamo detto: ma se queste macchine del caffè fossero connesse a internet e se queste macchine del caffè avessero dei sensori che danno una serie di parametri, come può cambiare il modello di funzionamento? Quale beneficio per chi acquista queste macchine e quale beneficio per chi consumerà il meraviglioso caffè che esce dalle macchine della Marzocco? Ecco, insieme a loro abbiamo costruito un percorso che, tradotto, è una serie di sensori e una scheda ad alto contenuto tecnologico all'interno di questa macchina del caffè, che rileva attraverso le nostre tecnologie tutto il comportamento della macchina. Il risultato è una maggiore consapevolezza da parte di chi acquista la macchina nelle potenzialità della macchina del caffè, ma soprattutto il consumatore che potrà bere un caffè migliore grazie alla tecnologia. tecnologia. Ecco, invece la Dallara che cosa fa? La Dallara è un'altra esperienza meravigliosa, un'azienda meravigliosa italiana nel campo dell'automotive, produce delle macchine, macchine da corsa straordinarie, e la loro competenza distintiva è la gestione del carbonio. Con loro abbiamo identificato due progetti molto interessanti. Lo primo, quello che chiamiamo di collaborazione industriale, uno degli aspetti per loro più importanti nella gestione di una materia così pregiata come il carbonio, è il processo di taglio e di laminazione del carbonio attraverso dei sistemi di telepresenza, quindi di video ad altissima definizione. Oggi i diversi poli di produzione, di definizione del taglio, della laminazione del carbonio, quindi sia in Italia che negli Stati Uniti, il processo di collaborazione di taglio e laminazione è completamente condiviso attraverso la collaborazione con sistemi di telepresenza. Il secondo, anche in questo caso fondamentale, è la tracciabilità del processo di lavorazione del carbonio all'interno del processo produttivo attraverso dei sensori intelligenti connessi alle nostre reti. E questi sono due progetti che stanno chiaramente aiutando la Dallara a essere più competitiva e soprattutto per pensare delle macchine ancora più veloci e ancora più performanti. Bene, abbiamo ancora pochi minuti e io volevo parlare delle vostre iniziative di formazione, che ci interessano perché sono iniziative che poi possono far lavorare dei ragazzi. Ecco, tra l'altro, voi assumete in Sisco Italia? Le ultime assunzioni abbiamo fatto delle assunzioni di ingegneri in due aree particolari, uno relativo alle telecomunicazioni, l'altro nella competenza nei dati. Ah, perfetto. E troviamo questi. E assumerete ancora? Il nostro business in Italia sta andando bene, quindi per chi fa il mio mestiere ha sempre l'ambizione di creare delle organizzazioni più importanti, quindi abbiamo questo percorso anche in Italia di assunzioni selettive. Ecco, e poi invece per la formazione che rende le persone in grado di essere appetibili sul mercato di lavoro e quindi magari di proporsi a voi ma anche ad altri, quali sono le vostre iniziative? E questa è una delle iniziative delle quali siamo più orgogliosi anche in Italia. Sisco da circa 20 anni anche in Italia ha un programma che si chiama Sisco Networking Academy e nel piano di investimenti del programma Digitaliani in Italia abbiamo messo al centro il più grande investimento, proprio quello relativo alle competenze. Abbiamo identificato come target di studenti in particolare gli istituti tecnici e gli istituti professionali, perché pensiamo che nella valigetta degli attrezzi di queste giovani, dei ragazzi o ragazze, delle competenze tecnologiche siano indispensabili per il loro futuro. Ci siamo concentrati su tre aree in particolare: che cosa vuol dire costruire una rete internet, che cosa vuol dire cyber security e che cosa vuol dire industria 4.0. Abbiamo siglato un protocollo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dopo 18 mesi siamo orgogliosi di dire che abbiamo formato 60.000 studenti. Quindi abbiamo circa 5.000 studenti che si sono certificati sulla cyber security, abbiamo 5.000 studenti che si sono certificati per l'industria 4.0 e abbiamo non solo formato gli studenti, ma abbiamo anche formato i docenti. Che è molto importante. Senta, ci resta un minuto e mezzo. Voi avete queste reti di ultima generazione con l'intelligenza artificiale incorporata. Una cosa detta così che sembra scenario da Odissea nello spazio. Ci spiega in un minuto di che cosa si tratta? La rete internet che Sisco ha dato un contributo negli ultimi 30 anni alla costruzione di rete internet. Ancora, diciamo, oggi buona parte dei dati, il traffico dati, utilizza le nostre tecnologie. La rete che noi abbiamo pensato tanti anni fa era una rete che aveva un'ambizione di connettere le persone. Oggi, o meglio, noi lo diciamo da qualche anno ormai, il potenziale della rete non è più solo delle persone, ma di tutte quelle cose, quei dispositivi, quei processi, quei dati che sono connessi alla rete. L'ordine di grandezza è miliardi di dispositivi che saranno collegati alla rete. Lo dice ormai non solo Sisco, ma tutti gli analisti di settore, chi si occupa di questo mondo. Ecco perché abbiamo ripensato alla rete. E una rete oggi, una rete moderna, noi abbiamo dato diciamo, una definizione che è una rete intuitiva, intuitive network, è una rete che deve essere capace, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso una completa automazione, di saper gestire in modo semplice e straordinariamente veloce tutti questi nuovi dispositivi che si collegano alla rete. Come farlo? Attraverso hardware e software che consente in modo velocissimo di adattare la rete verso i nuovi abitanti della rete. Questi nuovi abitanti non sono solo più persone, ma sono anche oggetti, dispositivi, sensori, oggetti. Dobbiamo chiudere. Salutiamo Agostino Santoni. Buona giornata a tutti. E a risentirci a sabato prossimo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buon sabato.